Cari amiche, cari amici, bentrovate e bentrovati, Radio Alma Bruxellando, è martedì sera, finalmente in questa atmosfera primaverile, possiamo dire dopo questo lungo inverno, finalmente una giornata tiepida, si può dire, finalmente insomma con un maglioncino in meno, alleluia, meno male, sarà che l'aria di primavera finalmente avvolge anche la nostra stupenda Bruxelles. Maridì ai microfoni, in compagnia di Fiordaliso e di Daniemme in regia. Salutiamo il nostro Georges Laurent in viaggio. Beato Georges che insomma riesce ad andarsene in giro. Noi ti aspettiamo ovviamente martedì prossimo e questa sera abbiamo un ospite molto gradito che ci narrerà, racconterà delle storie che risalgono a molto tempo fa. Però la storia per alcuni non è maestra, per altri invece lo è. Per altri invece magari assolutamente non lo è, ma può dare insegnamenti, suggerimenti, interpretazioni che possono guidare anche per chi si trova ad affrontare il presente e magari a indovinare il futuro. L'invenzione del regno è questa l'opera di cui parleremo questa sera, scritto da Pasquale Hammel. In realtà, come vedrete, è un libro che ho trovato molto ben scritto, ricco di aneddoti, insomma molto avvincente, un libro storico che invece si addice anche molto bene ad un libro di avventura per chi poi nella storia riesce anche a intravedere gli eroi e quindi non solo i sovrani. E sono tanti gli eroi che soprattutto intorno all'anno 1000, soprattutto se sono normanni, cerchiamo anche magari di immaginarceli sicuramente belli, alti e biondi, probabilmente barbari e un po' rudi. Però questo insomma è l'aspetto più letterario e magari affascinante di chi si trova a leggere un libro. Pasquale sarà tra qualche minuto nostro ospite e quindi lui ci potrà poi raccontare di più di queste vicissitudini e capiremo di quale regno stiamo parlando e perché soprattutto l'invenzione di un regno. Come dicevamo prima è primavera, non so se avete già potuto notare, le giornate finalmente si sono allungate, quindi abbiamo sicuramente guadagnato un'ora di luce. Tra un paio di settimane, finalmente, lo dico veramente scalpitando, guadagneremo ancora un'ora in più, quindi insomma sarà ripristinata l'ora legale e l'agenda effettivamente di Bruxellando è sempre ricca di tantissimi eventi. Volevo ringraziare, prima di procedere con questa serata, a tutti coloro i quali hanno gradito la puntata dell'ambasciatore Domenico Vecchioni, che ci tengo a salutare nuovamente. Siamo stati veramente felicissimi di averla, l'intelligence, nostro ospite, la puntata del 2 marzo, perché sapete che ultimamente purtroppo riusciamo ad uploadare le puntate ogni due settimane, perché insomma per recuperarla non è più così semplice come lo era prima, e abbiamo avuto tantissime email di apprezzamento. La puntata quindi dedicata all'intelligence, alle prime forme di spionaggio dell'età moderna, riviste poi con il segno di poi, sia presente che futuro, sono state uno degli argomenti che ha raccolto maggiormente il gradimento del nostro pubblico, soprattutto cibernetico. Quindi ringraziamo tutti coloro i quali continuano a scaricare le nostre puntate. E non vi prometto nulla, ma se ci riusciamo stiamo pensando di creare altre puntate intorno al tema dell'intelligence, che possa quindi vedere Domenico protagonista qui con noi a Bruxellando ancora per varie puntate. Noi ovviamente lo ringraziamo per la sua disponibilità e vi ricordo che la volta scorsa Domenico era nostro ospite nell'ambito dell'angolo Curiosando, mentre invece per la sua prima partecipazione era ospite generico insomma di Bruxellando. Per le prossime, di Bruxellando e quindi della sezione La pena del diplomatico. Nelle prossime sezioni parleremo sempre di Curiosando, quindi se a volte vedrete nelle descrizioni due ambasciatori che si alternano, non perché La pena del diplomatico insomma si è duplicata, anzi comunque ci fa piacere, ma perché ci sono questi due momenti nei quali Curiosando ritrova in un ambasciatore, in questo caso Domenico Vecchioni, un illustre esponente. Maridì. Daniemme. Poi io volevo dire una cosa, e questo lo dico a tutti i nostri assidui visitatori del blog: tra qualche giorno potrebbe esserci una super sorpresa, però non la sveliamo, dico solo che è un'anteprima italiana in Belgio, sul nostro blog. Sì, se continuate a seguirci avremo l'onore di poter intervistare... Qualcosa di molto molto potente. Di intervistare uno dei più amati cantanti italiani, non solo in Italia, che è venuto raramente in Belgio, che sarà nuovamente in Belgio tra qualche tempo, e con estremo piacere devo dire, perché rispetto a tutti i tentativi passati la nostra umile redazione non è mai riuscita. Ma non sveliamo chi è. Non svelerò assolutamente nulla, perché il mistero insomma deve anche essere coltivato, però seguiteci, continuate a seguirci, perché riusciremo finalmente a regalarvi una chicca, che è stata un po' una piacevole sorpresa, ecco, non ce l'aspettavamo, perché siamo abituati un po' soprattutto ai no. Questo a volte un po' ci rattrista, perché le grandi star che dicono poi di venire qui all'estero a salutare i nostri emigranti, per chi si sente ancora tale, noi non possiamo sostenere questa loro teoria, anzi vi confermiamo che è assolutamente falsa. Quindi insomma, quest'artista invece si conferma essere uno straordinario personaggio, e io spero che poi sia straordinario anche nell'intervista, ma questo avrete modo di ascoltarlo tra qualche tempo. Bene, ora non vi annoio più, e Dani M vedo che già scalpita con un suggerimento musicale, quindi Dani, se tu sei pronto. In onore della primavera che arriva e del fatto che oggi finalmente ho potuto riutilizzare la Vespa. Bene, siamo tutti orecchi. Cari amiche e cari amici, bentrovati dopo questo suggerimento musicale. Come annunciavamo poc'anzi, Pasquale Hamel, che ha scritto L'invenzione del regno, è nostro ospite qui questa sera a Brustellando. Pasquale? Pronto? Sì? Sì, ci può sentire? Sì, sento. Ah, ben trovato e benvenuto a Brustellando. Grazie e ben trovate voi. La ringrazio. Io ho solo brevemente accennato all'inizio della trasmissione della piacevole discussione che avremo sulla sua ultima fatica letteraria, che è L'invenzione del regno, dalla conquista normanna alla fondazione del Regnum Sicilie 1061-1154. Prima però di passare al romanzo stesso, anzi al saggio stesso... Piuttosto che il romanzo è un saggio storico. È un saggio storico, esatto, sì. Però poi rivedere magari alcuni personaggi col senno di poi, insomma, si può anche un po' fantasticare magari sulla forza dei due fratelli. Certo, si può vedere pure l'aspetto un po' magari più letterario e magari più romanzesco. No, diciamo che la forma, ecco, la cifra di scrittura è letteraria, perché purtroppo molto spesso gli accademici, e mi ricomprendo fra questi, abbiamo questo di grosso difetto di scrivere per noi stessi, cioè autoreferenziali. In realtà bisogna comunicare, ecco, e scegliere una forma letteraria è quella che fa, diciamo, affabula meglio il lettore. No, ma tutto sommato io questo libro trovo che sia invece scritto molto bene, non abbia poi in realtà un linguaggio così autoreferenziale. Insomma, io ho trovato la lettura molto scorrevole e allo stesso tempo avvincente. Sì, perché proprio perché dicevo questo, molto spesso gli storici, soprattutto gli storici nostrani, che sono per la gran parte, le devo dire, faccio una critica, che può essere anche un'autocritica, per la gran parte sono degli archivisti, ecco, le loro ricerche non sono ricerche che considerano ecco, da comunicare agli altri, c'è una specie di aristocrazia della cultura o prodotto letterario, del prodotto culturale, ecco, per cui per usare un termine, una frase, una bella battuta di Orazio, dice spice a corona se cerne tra popolo, cioè la corona di alloro mi separa dal popolo, gli altri sono niente, ecco. Bene, però prima insomma quindi di parlarne, perché sono tante le domande diciamo che mi piacerebbe porle questa sera qui in radio. E io sono pronto a rispondere. Bene, ci racconti un po' del suo cammino, insomma, innanzitutto se ci può dire qualcosa magari sul suo lavoro, sulle sue attività magari professionali. Certo, insomma. Certo, guardi, allora, intanto c'è una passione per la scrittura come una passione per la cultura, sono i due elementi che guidano da sempre il mio percorso esperienze sia professionali nel campo della burocrazia, per mia fortuna o sfortuna, che non so se bisogna chiamarla tale, io ho avuto diverse responsabilità. Sono stato funzionario parlamentare, ho diretto una serie di servizi importanti a livello parlamentare, sono stato anche vice segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana e poi così altre cose, sono stato anche il responsabile dell'ufficio dell'Assemblea regionale siciliana proprio a Bruxelles, Un periodo di passaggio, in un periodo più di passaggio appunto di critico in un certo senso, e poi altri percorsi, sono in università, ho avuto diversi incarichi e così via di seguito, è inutile elencarle delle tante cose che ho fatto nella vita, perché ormai avendo 60 anni poi uno guarda indietro e dice mamma mia quanto tempo è passato. Però mi sembra di capire, insomma, dalla sua biografia che L'invenzione del regno non è il suo primo libro, quindi che ha già avuto modo di scrivere in passato. Sì, sì. E sempre certo, però mi sembra... Guardi, allora, sono due le piste o i percorsi che io ho praticato. Proprio il percorso letterario che mi ha sempre appassionato, l'amore per la scrittura è uno dei punti di riferimento che ho sempre avuto, e poi l'amore per la storia, per la saggistica, che è l'altro elemento portante che mi ha anche gratificato di una serie di incarichi accademici proprio in relazione a questa attività scientifica. Io elencarle dovrei essere un po' presuntuoso, ecco, le dovrei elencare una ventina di libri che ho scritto e numerosissimi saggi in riviste di vario genere, ecco. Ma ho cominciato a 25 anni. Ho capito, quindi insomma... E cioè nel 75, quindi lei può immaginare quanti anni ho. Ecco, un lungo percorso. Sto arrivando ai 61. E ho cominciato con un romanzo, allora scritto in un momento particolare di quasi depressione, perché mi trovavo a fare un lavoro che non mi piaceva. E poi di lì ho percorso diversi argomenti, ho praticato diversi argomenti, ho praticato diversi studi che hanno portato sia a produzione di carattere squisitamente letterario, sia a produzione di carattere scientifico, la saggistica. Ecco, ho pubblicato con la casa editrice Sellerio, ho pubblicato 4 volumi con la casa editrice Sellerio, poi con la casa editrice Marsilio Rizzoli e così via di seguito, quindi il percorso è stato articolato, anche gli editori riuniti, su argomenti sempre che o sociali o letterari. Bene, quindi L'invenzione del regno invece. Siamo nel 1061, nel 1061 inizia la conquista normanna della Sicilia, per due secoli gli arabi sono stati i padroni di questa terra comunque straordinaria, che tanta importanza poi assumerà nel Medioevo, e sicuramente insomma potremo parlare di tante teorie che furono formulate proprio sul ruolo che la Sicilia ebbe nell'alto Medioevo. Come mai L'invenzione del regno? Partiamo proprio dal titolo che mi ha incuriosito tantissimo. Ecco, il titolo è una delle chiavi di volta, o meglio, è la chiave che apre anche la curiosità, l'attenzione del lettore. Dico, è stato quasi un prodotto meccanico, però è stata una scelta buona, perché ha attirato moltissimo i lettori. Devo dire che sono alla seconda edizione adesso. Beh, complimenti. Ecco, invenzione, perché invenzione? Invenzione, e sono nei due... sotto due profili potrebbe essere considerata: qualcosa di che si trova, e secondo l'itinerario, ecco il termine latino inventio, oppure qualcosa che è atto creativo. Ecco, io ho scelto la seconda di queste ipotesi, cioè quella del regno normanno è un atto creativo. Prima non c'era il regno di Sicilia, non c'erano elementi che potessero portare alla creazione del regno, all'edificazione. Non è un fatto solo materiale, ecco, avrei potuto dire fondazione del regno, quindi un atto materiale, invece è un atto creativo proprio, quasi spirituale in questo senso. E quindi questa è la scelta del termine creazione. Creazione del regno perché, invenzione del regno perché è un atto creativo, un atto nuovo. Ma secondo lei i normanni comunque avevano come obiettivo la conquista della Sicilia. Quindi come, allora la Sicilia si inseriva quindi nel contesto delle conquiste normanne. Però lei parla di regno e invenzione di regno riferito esclusivamente solo alla Sicilia. Sì. Allora, intanto le dico questo, i normanni, ecco, chi erano i normanni? Sì. I normanni erano un popolo straordinario, un popolo che aveva quest'ansia di conquista, quest'ansia di espansione, questa voglia di imprimere una realtà di potere all'interno dei territori. Erano sostanzialmente anche dei predoni, ecco, non è che fossero della gente tranquilla così, erano dei predoni che naturalmente puntavano solo subito all'obiettivo materiale. Però accanto a questo avevano due doti che li accompagnavano. La prima era una adesione, che avevano adesione totale e completa ad una fede, la fede cristiana. Ecco. La seconda dote, che è anche importante ai fini del consolidamento di quel progetto, che poi, di quell'idea che poi diviene progetto, ecco, è il fatto che gli stessi normanni non avessero una cultura dietro, non avevano una cultura dietro, cioè non erano un popolo culturalmente strutturato con una propria cultura da imporre al territorio, e quindi erano più disponibili ad assorbire le sensibilità, gli umori, le tensioni culturali del territorio che andavano a conquistare. Ecco il fatto della, chiamiamola, tolleranza, che è un termine naturalmente illuminista, un termine che non si può adattare all'epoca ferrigna, certo, che è proprio quella del Medioevo, ma che noi utilizziamo abusivamente per significare questa capacità di mettere insieme culture e di non fare e di assorbirle, ecco, in questo senso. Quindi lei sostiene che la Sicilia, già insomma intorno all'anno 1000, era comunque una terra già ricca di valori, già ricca di cultura, su cui fu molto, diciamo, semplice per modo di dire, però insomma ci siamo capiti, quindi fu, diciamo, culturalmente c'era un territorio su cui si poteva costruire effettivamente un regno e non più una delle province qualsiasi dell'impero ottomano, dell'impero arabo, scusi, sì, dell'impero arabo, sì. E allora sì, in Sicilia intanto c'erano delle presenze culturali articolate, è una Sicilia complessa, c'erano la presenza islamica predominante e molto forte, c'era una presenza cristiana però con uno sguardo a Bisanzio, quindi diciamo legata al mondo orientale. C'era una piccola base di latini, c'era anche una grossa presenza di comunità ebraiche. Ecco, ognuna di queste realtà esprimeva una propria cultura, quindi c'era un fermento culturale. Ecco, questi fermenti culturali dovevano essere sintetizzati, portati, diciamo, ad un livello tale da creare una cultura comune. Naturalmente io sostengo che nel periodo normanno non si arrivò a quella integrazione culturale, a quella simbiosi di varie culture o quella sintesi di varie culture. Si arrivò ad una realtà multiculturale in cui ciascuna cultura si ritagliava il proprio ambito e spazio territoriale o demografico, ecco, non ponendosi certo in conflitto con le altre, ma nello stesso tempo poco dialogando con le altre. È un fatto che nel Medioevo poteva essere importante e significativo, oggi sarebbe devastante. Infatti io considero la multiculturalità, che si contrappone all'interculturalità verso la quale io sono molto portato, molto vocato, ecco, la multiculturalità è la realtà del conflitto, ecco, è la realtà nella quale emergono i conflitti. Anche in Belgio stesso, dove in certi sensi si pratica una certa multiculturalità, che è una superficiale capacità di comprendere le culture, il conflitto emerge. A proposito di conflitto, quindi abbiamo questa giovane potenza, quella dei Normanni, e questo articolato sistema arabo. Quale fu l'arma vincente? Quale fu la tattica utilizzata dai Normanni per sbaragliare l'avversario arabo? Allora, intanto i Normanni si trovano di fronte ad una realtà molto articolata. Siamo in un momento in cui il mondo islamico, c'è una bellissima definizione di uno storico francese, di un grande storico francese, Fussier, il quale dice che ci troviamo di fronte in quel momento alla deflagrazione dell'impero arabo, dell'impero islamico. Cioè in quel momento quella unità che è l'Umma, che aveva contraddistinto la grande spinta espansiva del mondo arabo, era finita. E a questa si era sostituita una frammentazione che in certi posti era diventata quasi patologica. In Spagna con il Reinos de Taifa, ecco, aveva dato a questi aspetti. Anche in Sicilia, che dove c'era una realtà, si era realizzata una realtà unitaria attorno all'emiro di Palermo, ecco, questa stessa realtà si era frantumata in una serie di potentati, si autodefinivano emiri, che praticamente si dividevano il territorio e fra l'altro confliggevano fra di loro, non avendo riserve ad allearsi anche con gli infedeli per raggiungere quegli obiettivi che interessavano. Quindi questa realtà frantumata ha facilitato, diciamo, l'azione militare. Poi dall'altra parte c'è anche il fatto che il territorio siciliano e soprattutto la parte orientale era a maggioranza cristiana, di rito greco, ecco, di rito orientale, di rito bizantino, e questi non potevano che vedere bene arrivare altri cristiani che in un certo senso li liberavano da una serie di balzelli, una serie di vincoli che gli arabi avevano imposto. Ecco, questa è un'altra delle motivazioni. La terza, e forse la più determinante, è la tipologia della forza militare, della terza militare normanna. Il cavaliere normanno era una specie di carro armato. Il cavaliere normanno era impeto, armamento di un certo tipo che in quel momento era all'avanguardia, e poi la motivazione forte che stava dietro, ecco. Il fatto di essere investiti, e qui io parlo anche in questo libro di crociate in un certo senso, anche se siamo ancora un po', anticipiamo i tempi delle grandi crociate, ecco. Il fatto però di essere investiti di una missione, quella missione che Papa Nicolò II aveva dato, ecco, aveva inculcato in Roberto il Guiscardo, ecco, quella missione era determinante ai fini di creare un sentimento forte che portava a questa grande capacità di spezzare, ecco, la rilevantissima forza degli islamici, dei saraceni. Qui si tratta di una proporzione, i saraceni presenti erano 10, una proporzione potrebbe essere da 10 a 1, e questa è la proporzione che i Normanni erano un piccolo gruppo, però compatto, coerente, coeso e motivato. Quale fu la... Allora, quindi avviene la conquista, immaginiamo, purtroppo dobbiamo andare un po' rapidamente ed è un peccato perché i tempi in radio, come sa, sono molto tiranni. Però, per dare anche un giudizio, diciamo, da storico, il regno di questo regno, ovviamente, fu una sorta di novità, dico pressoché rivoluzionaria, sullo scacchiere geopolitico del Mediterraneo. Rappresentò quindi un cambiamento con una continuità? Oppure rappresentò un cambiamento che non diede continuità? Intanto si crea un regno che ha una centralità geopolitica importantissima nel Mediterraneo. È il regno più importante, il regno che dà le carte, ecco, nel Mediterraneo stesso. E riesce a dialogare anche con i grandi imperi, sia con l'impero bizantino, sia con l'impero germanico e naturalmente anche con il mondo arabo. Anche con il Papa di Roma, la Chiesa di Roma, Certo. ecco. Quindi Tutto questo ha una significazione forte. Per quanto riguarda poi le capacità di questo regno di essere centrale, ecco, questo regno riesce in un certo senso a individuare dei percorsi di modernità che in quel momento non esistevano. Intanto, mentre, ecco, una nota da fare, da tenere presente, mentre i Normanni realizzavano questa unità, l'unità che nel resto del paese, nell'Italia del Nord, il Regno d'Italia, il vecchio Regno d'Italia, di Berengario, poi dei Carolingi e così via di seguito, si frantumava attraverso le lotte dei comuni. Quindi c'è questa grande contraddizione e questo processo storico tutto particolare. Quindi ci troviamo di fronte a un qualche cosa di assolutamente nuovo, con grandi capacità di sviluppo. E questa è la sostanza soprattutto delle... Ecco, lei ha parlato di continuità o di rottura. Io credo che ci sia la continuità, cioè la capacità di assorbire le culture e quindi gli umori più forti che esprimeva il territorio, con una rottura, cioè un'idea nuova del modo di porsi, del potere rispetto al territorio stesso. Un'idea nuova che era quella che poi fu contemperata anche sul piano economico, sul piano della struttura organizzativa, di un feudalesimo tutto singolare, in cui esisteva sì la struttura feudale, cioè la possibilità, il fatto che il territorio venisse suddiviso in feudi da offrire ai comites, ai compagni del sovrano, ma nello stesso tempo esisteva un potere centrale molto forte, capace di dare delle dritte e di realizzare quegli obiettivi generali che una feudalità lasciata a se stessa, come è avvenuto in altri luoghi, in altri paesi, rischiava di compromettere. Se si parla di Stato, in genere, una delle prime prerogative, anche oggi, per esempio, se pensiamo al Kosovo, è avvenuta la stessa cosa, si parla di riconoscimento internazionale. Possiamo traslare, insomma, questa terminologia Ecco, sì, anche... ecco, intanto anche il termine Stato diciamo che È è un termine forte, moderno, lo so ecco, perfettamente, sì. però ecco, diamo questa connotazione di questo regno che ha una sua sovranità, eccetera. Sì, ecco, il problema del riconoscimento è uno dei temi forti su cui la storia del regno normanno si confronta e si misura. Un riconoscimento, il doppio riconoscimento. Il primo riconoscimento è il fatto di essere riconosciuti dalla Chiesa di Roma, perché il sovrano normanno è diciamo vassallo della Chiesa romana. Quindi finché non c'è il riconoscimento della Chiesa romana, l'unzione a cui tutti i re normanni tirano e tentano, ecco, si realizza una certa fragilità interna. Il secondo riconoscimento, e questo avviene naturalmente, questo con la Chiesa romana, avviene attraverso lotte, attraverso conflitti. Ruggero II, il primo re, ha due riconoscimenti, quello da parte dell'antipapa Anacleto II nel 1130 e quello da parte del Papa regolare, il Papa legittimo, che poi legittimo non era, ma questo è un altro discorso, ecco, e nel 1139. Stesso discorso avviene con con Guglielmo I, stesso discorso ancora avviene con Guglielmo II. Ecco, accanto a questo manca un altro riconoscimento, il riconoscimento dell'impero. L'impero è questa sovranità, tante volte un po' fumosa, un po' che non ha agganci forti, ecco. Questo riconoscimento tarda a venire, addirittura non viene né sotto Ruggero I né sotto Guglielmo I, bisogna aspettare il 1177 quando Federico Barbarossa riconosce finalmente Guglielmo II come sovrano di Sicilia, come re di Sicilia, e in quel caso si arriva al culmine, diciamo, di questo disegno di sovranità che viene percorso per varie fasi, per lunghe fasi e con grande fatica e attraverso grandi processi anche che creano anche delle situazioni di instabilità. E parliamo invece un attimo, ci sono ancora due domande, mi dispiace perché ne avrei ancora tante tante altre, ma io spero di avere la nostra ospite a Bruxelles, magari in libreria, per presentare il suo libro, perché così potremo insomma avere più tempo a disposizione. Sarà un piacere perché a Bruxelles incontrerò anche tanti amici. Ah, ne sono felice. L'organizzazione del regno, l'organizzazione sociale, ha delle chicche, delle prerogative eccezionali e uniche rispetto al tempo storico di cui stiamo parlando? Allora, intanto proprio quel discorso che le facevo di quel feudalesimo anomalo che si realizza, in cui c'è una centralità e c'è anche il decentramento, ecco, questa è una caratteristica singolare, perché in tutti i contesti feudali invece questo non esiste, il territorio viene abbandonato normalmente ai feudatari, mentre il sovrano normanno controlla il territorio attraverso dei funzionari reggi, i paiuoli, i quali si contrappongono anche ai feudatari. Possiamo dire con una battuta alla Brecht, il cittadino, che poi è anche un altro termine che molto moderno nel Medioevo, ma comunque il suddito aveva un giudice a Berlino, ecco, possiamo usare questa parafrasi, ecco, dire, poteva avere qualcuno che lo difendeva dalla rapacità del feudatario, ecco, questa è una delle cose singolari di questo regno. Poi questo regno si è dato anche delle regole precise, l'assise d'Ariano, che è un momento importantissimo di legiferazione, ecco, l'assise d'Ariano dà le regole al territorio, è il governo del territorio, e si crea un corpus giuridico che è diverso da quello giustinianeo, è un corpus giuridico singolare, certo ci sono sempre i richiami al corpus giuridico giustinianeo, ma è un corpus giuridico singolare che regola la vita del regno stesso. E poi delle singolarità organizzative sono il fatto che esista una curia e quindi un governo che di consiglieri o di consigliori, ecco, del sovrano stesso, ai quali il sovrano molto spesso si affida. E poi un'altra cosa, il sorgere di un embrione di Parlamento. Molto spesso si parla, naturalmente è un'invenzione giornalistica, di quello siciliano come il primo Parlamento d'Europa, però già ci sono in nuce gli elementi per individuazione di uno strumento parlamentare. Ecco, questa è un'altra delle caratteristiche del regno normanno. Il sovrano normanno, prima di farsi ungere, si fa riconoscere dai principi, quindi dall'aristocrazia, ma anche dai rappresentanti del territorio stesso. Ecco, allora, il Parlamento che ha una sua funzione, un suo significato. Poi questo discorso si evolverà naturalmente, certo, con il vero e proprio Parlamento siciliano che parte dal 1296 sotto Federico III d'Aragona. Un'ultima domanda. Ruggero II tra mito e realtà, brevemente. Sì, ecco, Ruggero II è un personaggio che ha subito uno scippo. È un uomo di una grandezza eccezionale, un uomo che ha una capacità, non solo una capacità di governo, una grande lucidità nel suo disegno di governo e anche nella sua stessa vita, un uomo di grande cultura, ma quello che ha subito, ecco, questa è la realtà di Ruggero II, un uomo eccezionale, capace di rispondere alle varie sollecitazioni con grande determinazione e con grande lucidità. E il mito che non è il mito di Ruggero, è il mito di un altro personaggio, del nipote di Ruggero, cioè Federico II. Ruggero, lo dicevo, ha subito uno scippo, le qualità, le doti, le virtù, la grandezza, la cultura di Ruggero II sono state trasferite d'emblée su Federico II, che è stato un grande personaggio, però va ridimensionato nella sua realtà storica, ecco. È un personaggio molto inferiore a quello che appare, e molte di quelle virtù che gli si attribuiscono non sono altro che virtù e qualità che sono del nonno. Ecco, questa è una delle cose sulla quale oggi anche, devo dire con sincerità, mentre prima la storiografia esaltava il personaggio mitico, ma noi abbiamo bisogno di miti, di simboli, quindi demolirlo è difficile nell'immaginario collettivo. Ecco. Però ecco, oggi la storiografia comincia a cambiare e a mutare direzione. Gli ultimi studi, quello di Abulafia, l'ultimo per esempio è di Wolfgang Suhrner, hanno ridimensionato il personaggio, l'hanno riportato ad una realtà che è quella vera e che non è quella mitica. Io avrei un'ultimissima domanda proprio dalla regia. Mi ha molto... Anche la regia interviene. Se il dibattito merita. Mi ha molto intrigato la differenza che ha fatto prima tra interculturalità e multiculturalità. Brevemente, sì, potrebbe dirci quali sono gli elementi appunto distintivi dei due concetti? Ecco, guardi, io devo dire, 3 anni fa ho scritto un libro per gli editori riuniti, Il Mediterraneo da barriera a cerniera, che era tutto incentrato su questo tema. Allora, che cos'è la multiculturalità? Molti utilizzano questo termine in maniera impropria, scorretta, perché pensano che sia proprio la cultura della strada della modernità, cioè la comprensione di tutte le culture, eccetera. Anche in questo ha lavorato una certa visione culturale, quella che viene da Derrida in poi. Ecco. La multiculturalità è la cultura del ghetto, ciascuna cultura sta separata dall'altra, crea una specie di recinto attorno a sé e non dialoga con l'altra. Questo non fa crescere certamente la realtà territoriale nella quale ciascuna cultura si insedia, addirittura porta naturalmente ai conflitti. L'interculturalità invece è rispetto delle stesse culture, però tentativo di metterle insieme, di cercare di sintetizzarle, di portare almeno su alcuni principi, su alcuni valori, su alcuni elementi portanti, di portarle tutte a quel livello. Ecco. L'interculturalità è il processo, è un processo, mentre la multiculturalità è un fatto di staticità. La multiculturalità e l'interculturalità, dicevo, è un processo di crescita, di sviluppo, in cui gli umori, i sentimenti, le sensibilità di ciascuna cultura vengono esaltati, però in una sintesi che complessivamente porta alla crescita del territorio. Pasquale, noi la ringraziamo, è stato effettivamente davvero sintetico e avremo tante altre domande. Però ci riserviamo veramente l'onore ed il piacere di poterla intervistare nuovamente qui a Bruxelles. Il piacere e l'onore sarà mio perché, devo dire, per due ordini di motivi. Primo perché In un certo senso, in quel periodo che sono stato a Bruxelles, ho amato anche Bruxelles. In secondo luogo perché vengo a trovare tanti amici e poi anche perché vengo a trovare voi. Allora, noi di Bruxellando, quindi Daniele Regia, Fiordaliso e Maridì, la ringraziamo. Quindi ricordiamo L'invenzione del regno di Pasquale Hamel a cura della Nuova Ipsa Editore. È possibile ordinarlo in internet? Sì, certo. Quindi tutti i nostri ascoltatori, volendo, possono facilmente ritrovarlo e acquistarlo anche nelle librerie. Troveranno molte sorprese. Io questo lo so. Questo lo so, ma tanti misteri purtroppo non si possono svelare, altrimenti la lettura è vana. Non si può dire tutto. Assolutamente. Io vi ringrazio molto e spero che non abbiate molto freddo, qui c'è abbastanza freddo. Oggi no, devo dire, per la prima volta dopo tanti mesi, una bella giornata, diciamo, soleggiata. No, qui abbiamo pioggia e mai stata tanta pioggia in Sicilia. Oh, ci dispiace, veramente ci dispiace. Comunque allora, ancora buona serata e speriamo a prestissimo. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Librangolo. Il DJ fa librangolo. Remixa. E manca Giorgetto. Cioè, è così tanto di successo questo brano musicale che oramai c'è anche il remix. Evviva. Questo era il Dani M remix. grazie. Ecco, stasera continuiamo un po' su questa vena che mi è piaciuta l'altra volta, di parlare di scrittori invece che di libri staccati attorno ad un tema, perché mi è venuta così, semplicemente. E mentre l'altra volta ci siamo sprofondati nel futuro, adesso ci sprofondiamo nel passato e andiamo fra le sorelle Brontè, che sono una delle mie preferite. E abbiamo parlato, le abbiamo menzionate qua e là, con i loro libri un po' onnipresenti, però non abbiamo mai parlato veramente di loro stesse. E una cosa che vi volevo raccontare è soprattutto questa stranezza, cioè è quasi un mistero shakespeariano, se possiamo dirlo, ma ovviamente sto un po' esagerando, ma quello che sto dicendo è che immaginatevi tre donne, sorelle, che vivono relativamente recluse in una cittadina, un paesino del nord dell'Inghilterra, Yorkshire, insieme al padre, e che scrivono dei romanzi che sono pieni di passione, di intelligenza, anche di conoscenza della società e del mondo in cui stavano vivendo, anche erano praticamente delle femministe avant la lettre, in un certo senso, perché i loro personaggi sono tutte donne indipendenti che rivendicano anche una certa uguaglianza con l'uomo, con i loro amati nel loro percorso. E quindi è strano immaginare che da questo isolamento possa nascere qualcosa di così colorato come la opera delle tre sorelle Brontè, con cui non voglio inferire che non hanno scritto loro i romanzi che conosciamo fino ad oggi. Imola, scusa l'ignoranza, quali sono le opere delle sorelle Brontè? Ah, ci arriviamo, non ti preoccupare. Mamma mia, dobbiamo informare la regia, perché così non si può continuare senso, a vivere. Nel senso, sono piccole donne greche. No! No, si tratta di Jane Eyre, si tratta di Cime Tempestose, si tratta di tante cose, ma comunque ci arriviamo, te lo prometto. Perché si deve arrivarci. Comunque, fra le sorelle, magari quella più mondana, fra virgolette, perché semplicemente la loro mondanità era, uno, fare delle governanti in famiglie un po' più ricche, che non voleva necessariamente dire che era una situazione molto piacevole, o andare in scuole che in quei tempi erano anche abbastanza duri, potevano essere. Per esempio, ai tempi non si pensava veramente che i bambini sentissero. Cioè dicevano, beh, il bambino è ancora un animale, diciamo in un certo senso un bruto, e quindi si deve picchiarla, magari non si dava nemmeno abbastanza da mangiare e tutto il resto, perché tanto si deve formare il suo spirito e tormentare il suo corpo. E quindi, infatti due delle sorelle, che ovviamente non si conoscono, sono morte durante gli anni scolastici, e queste tre poverette hanno sopravvissuto, non a lungo, perché due delle sorelle, precisamente Anne e Emily, sono morte abbastanza presto. Adesso non mi chiedete gli anni perché purtroppo non le so, però comunque da giovanissime. E Charlotte è quella che sopravvive più a lungo e muore a 42 anni, qualcosa del genere, cioè più a lungo, capirete, eh? Cioè che grande le cose. E infatti è anche l'unica che si è sposata, ma all'età di tipo 40 anni, quindi ha vissuto le ultime due, più o meno due anni della sua vita sposata. Quindi, cioè, immaginatevi, cioè, questa vita è un po' particolare, ma Charlotte e Emily erano le due sorelle che sono anche scappate da questa realtà chiusa di questo paesino, infatti loro due sono andate a Bruxelles a studiare il francese, questo ve l'ho menzionato tanto tempo fa una volta, come bel riferimento su questa città. Purtroppo il quartiere di cui si tratta è oramai sparito, era là dove ora sta il museo, il Beaux-Arts, però sia Charlotte sia Emily hanno così avuto l'opportunità di uscire dal loro paesino, di vedere un po' del mondo, e Charlotte ha resistito infatti molto di più, ci è tornata e ci ha trascorso almeno tre anni in totale. Ed ecco, cioè, non è che la varietà è così esuberante, non è nemmeno che le loro sorti erano così facili, però mi immagino. Mi immaginavo e mi immagino tante volte queste stesse sorelle mentre stanno nella loro stanza, nel loro soggiorno, e mentre stanno leggendo una all'altra dei brani che stanno scrivendo, mentre discutono, perché erano anche molto interessate in politica e tutto questo, o di storia. Quindi è un'atmosfera molto intellettuale, diciamo, che loro si sentivano più a loro agio nella compagnia delle sorelle, e quindi fiorivano come dei fiori esotici, che vediamo anche nei loro libri. E infatti il libro magari più conosciuto saranno quelli di Charlotte e di Emily. Charlotte è conosciuta universalmente attraverso il Jane Eyre, adattata anche in svariatissimi adattamenti televisivi e cinematografici, in cui, come sappiamo, tanti, si tratta di una protagonista un po' bruttina, povera, una governante che però è molto intelligente, una persona molto indipendente e che riesce e vuole tenere la sua sorte nella mano, nel frattempo, e ci riesce anche. Il suo amore per il misterioso e cupo Rochester è una delle cose che nell'immaginario almeno femminile è onnipresente. Però Charlotte Bronte mica si è fermata qua, ha scritto per esempio Villette in base alle sue esperienze a Bruxelles, dove troviamo anche una Bruxelles riconoscibile addirittura per quelli che vivono qua, e dove presenta un personaggio femminile molto diverso, una che cela i suoi sentimenti, che però dovrà praticamente imparare di vivere più a contatto con il mondo. Ha scritto anche un romanzo che è praticamente dedicato alla sorella Emily, che si chiama Shirley, che secondo Charlotte stessa è dedicata a Emily come sarebbe stata nel caso se fosse nata indipendente e ricca. Cioè, si tratta di una donna con quasi una donna uomo, diciamo, però che è anche molto avvincente e anche un po' testarda, però ha una sua volontà che spesso la sua intuizione la porta nelle direzioni assolutamente giuste. Quindi è anche questo un personaggio molto interessante. E in più questo romanzo tratta anche di temi sociali, anche quello abbastanza inusuale. Poi ancora più inusuale è l'unico romanzo di Emily Brontë, quindi Le cime tempestose, che con la sua, cioè è praticamente per le more del tempo sarà stato uno scandalo completo, dalla prima lettera fino all'ultima, con i suoi personaggi principali, cioè semplicemente accettati, tipo Kathy che è praticamente una persona insopportabile, proprio una persona insopportabile, cattiva, crudele, poi il suo amore che peggio tre volte di così, che però cioè questo romanzo vive attraverso quella passione e quell'atmosfera di goticità, di cupezza, di fantasia, cioè quasi delle passioni che praticamente diventano fantasmi. Secondo me è quello, non è veramente un romanzo di fantasmi, sono le passioni che stanno facendo rivivere ogni pagina, ogni parola. E infatti è per questo che è così strano che una persona che, almeno quanto sappiamo noi, non sia stata mai innamorata, come riesca a trasmettere una cosa del genere? Cioè, incredibile, vabbè. Anne Brontë invece è la terza sorella, che è magari la meno conosciuta di tutte. Infatti fino al punto in cui avevo soltanto letto come si chiama? Agnes Grey, scusa, che è un romanzo sulle sue esperienze come governante, beh, ho detto minore, infatti, cioè non è che si può comparare. Però dopo mi è capitata fra le mani La reclusa di Wildfell Hall, che invece è un romanzo molto, ma molto interessante. Anche quello tratta di temi, si lancia in temi sociali che erano davvero, cioè praticamente proibiti di parlarne di quel tempo, di uomini alcolizzati che vivono una vita dissipata, di una donna che per proteggere il suo figlio scappa da questo suo marito moralmente devastato e devastante. E che cerca di nascondersi in un villaggio reclusa, vivendo del suo talento di pittrice, e là dove incontra un giovane di cui si innamora, ma con cui ovviamente non può fare niente, siccome è sposata, anche se questo è un segreto. Che però neanche questo giovane di cui si innamora è proprio la culmine della perfezione, però riconosciamo, cioè, la differenza, che è proprio cielo e terra comunque, però. Però c'è anche questo senso di realtà, cioè non sta esagerando, si tratta proprio di persone abbastanza reali, anche per esempio probabilmente l'ha aiutata il fatto che il fratello Bramble era un alcolizzato, purtroppo è addirittura morto di delirium tremens, quindi cioè... Non è molto bello, però si sente questa cosa che è vissuta. E quindi, che posso dirvi? Ve le raccomando tutte. Cari amiche e cari amici, noi ringraziamo Fiordaliso, ringraziamo Pasquale Amel, che è stato nostro ospite graditissimo qui questa sera. Ringrazio Dani M in regia, salutiamo Georges Laurent in viaggio e vi diamo appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata strepitosa. Buona serata a tutti! Visitate il nostro blog!